Ci sono delle dichiarazioni che in circostanze date sono inevitabili e altre che non si possono assolutamente fare. Così, per esempio, se voi foste eletti sindaco di un'importante città dell'Italia settentrionale dopo una lunga e sofferta campagna, non vi compiacereste certo con la stampa, oltre che per la vostra vittoria, per la mortificazione di quanti vi si sono opposti, né manifestereste il proposito di schiacciarvi nei limiti sotto il classico tallone di ferro. Affermereste al contrario la volontà di essere il sindaco di tutti, auspichereste ristaurarsi dei rapporti di più fattiva e cordiale collaborazione con ogni forza sinceramente interessata al benessere della metropoli e glissereste sulle richieste di un giudizio sull'attività del vostro predecessore, non potendo nel caso né smentire l'operato di un vostro collega di schieramento né esprimere il proposito di seguirne pedissequamente le tracce. Ricorrereste insomma a tutti gli espedienti della retorica per produrre una serie di proposizioni debitamente composte di soggetto, predicato e complemento, ma improntate al principio del minimo contenuto informativo possibile. Certi della comprensione di una platea di interlocutori che sanno benissimo come funzionano queste cose e per ora sono disposti ad accontentarsi di qualche particolare insignificante ma pittoresco, tipo quali fotografie intendete piazzare sulla vostra scrivania al Palazzo Municipale o in quale genere grammaticale preferite che vi sia declinato il titolo che vi spetta. A questi saggi principi si è attenuta finora la signora Moratti, e va benissimo perché lo stesso avrebbe fatto il suo rivale nell'improbabilissimo caso che avesse eletto lui, no? Di concreto, di proprio concreto, oltre al desiderio di tenersi quante più deleghe possibile, che è cosa su cui qualsiasi sindaco sarebbe totalmente d'accordo, ma poi dipende se lo lasciano o no, di concreto ha specificato soltanto un dettaglio. Ha detto che non le piace l'assetto attuale di Piazza Cadorna, e su questo c'è ben poco da obiettare, e che non poco giovamento verrebbe a quell'angolo di città se ne venisse rimosso il monumento di Klaus Oldenburg, Lago il Filo lo chiamano, che da 5 anni vi sorge. Poco importa, poco importa che signora, come sempre, non abbia voluto esprimere un giudizio negativo su uno dei maestri della scultura contemporanea, abbia detto che l'opera in sé non le dispiace, ma è il contesto che non le si addice, per cui sarebbe meglio spostarla in un bosco, in un parco anzi. È ovvio che i monumenti si giudicano nel contesto in cui sono inseriti, e che l'idea di sistemarli tra il verde lontani dalla fruizione quotidiana dei fruitori è semplicemente una tecnica per farli sparire. Come è capitato a fine 800 alla statua equestre di Napoleone III, esiliata per sopraggiunti cambiamenti di clima politico in un'area fronzuta del Parco Sempione, dove non avrebbe dato e non dà fastidio a nessuno. A me, per quel poco che conta a mio giudizio, quell'opera, quella di Oldenburg, non quella su Napoleone, quell'opera non dispiace. Mi pare anzi di avervelo già confidato in trasmissione anni fa. Ma non è questo il problema, naturalmente, perché chiunque in materia di monumenti è libero di esprimere le opinioni che crede. Il problema verte piuttosto sul perché, dovendo rendere nota più che altro per necessità retorica un proposito concreto, una singola indicazione fattiva dell'orientamento del proprio futuro lavoro, la neoeletta abbia scelto quel particolare e non altri. Come se a Milano non ci fossero altri problemi aperti, altre immane questioni di insediamento, di trasporti, di edilizia, di qualità della vita, di salute pubblica, di rapporti col territorio, nonché di organizzazione della convivenza sociale e culturale. Come se dalla sorte di quello che tutto sommato è soltanto un elemento di arredo urbano, si potessero trarre gli auspici di 5 o 10 anni di futura amministrazione. D'altronde probabilmente aveva ragione, perché tutti l'hanno presa molto sul serio e sull'argomento i quotidiani già compiono sondaggi e raccolgono opinioni. e si può anche capire, forse. Sappiamo tutti in fondo che un vero programma di giunta l'ottima Letizia potrà darcelo soltanto dopo le necessarie trattative col sistema di poteri e contropoteri, interessi e controinteressi che le stanno alle spalle. Che quindi, al di là delle personali intenzioni che possono essere anche migliori di quanto sembrano, non saprei dirvi, che quindi finirà col proseguire con minime varianti creative la linea del pavone Albertini, che di quello stesso sistema è la dirigente, sia pure più scialba espressione, con la differenza che di teatri alla Scala da demolire e taroccare non ce ne sono più, e che gli spazi da destinare allo sfruttamento edilizio e da riempire di automobili fumiganti si stanno esaurendo. Che la logica del quattrino e del controllo padronale sul territorio le precluderà qualsiasi colpo d'ala, mentre sa il cielo se non è di colpi d'ala che una città ridotta come la nostra ha bisogno. Per cui, stando così le cose, tanto vale rifugiarsi nel mondo sicuro dei monumenti, dei simboli, delle immagini, e concentrarsi sulle panchine, sulle forme dei lampioni, sulle sfumature cromatiche delle insegne del tram, e su tutto quello che colpisce lo sguardo, e poco importa in sostanza. È in questo contesto ormai che gli amministratori cittadini costruiscono o distruggono le proprie fortune, nella crescente consapevolezza del primato assoluto dell'apparire sul fare. Il resto, come diceva quel tale, è silenzio, nel senso che meno se ne parla, meglio è.